successo? Che stavo per girare e mi faccio passare un quadrante questa antenna, ho fatto cacchio, è uscito di testa, sono salito su, ho smontato il rotore, ma poi non lo potevo smontare perché c'era il masto lungo, ho dovuto tagliare un pezzetto sotto, portarmi una mola, tutto, cioè facendo danno in pratica, rischiando di fare, alla fine smonto, porto giù, e giù in stazione funzionava, lo apro, lo controllo, se era tutto a posto, lo rimonto su, sembra che e non mi facevo un pezzo di quadrante, vado a vedere e mi toccava a 3 cm, mi andava a toccare la punta dell'antenna dei 40 metri su un tirante, quindi si bloccava, ma immaginati un po', ma dimmi tu, c'è solo uno scemo, quando vedi certe cose dici, ma è mai possibile? Fabri, cose che succedono, non è parola di esperienza, non con l'antenna, cose che succedono, non ti preoccupare, l'importante è che vada tutto bene, poi piano piano già, quando è finito tutto vedrai che sarai meglio. Allora, microfono per Massimiliano, puoi girare da parte mia, non riprendo più, vi saluto, alle prossime, spengo tutto che è già tardi, ciao, Massimiliano a te. E la positiva, stavo aspettando perché anche io devo... è arrivata gente qua, devo mollare, va. Ok, buongiorno a tutti, fate la pratica col gomito stanotte e ci sentiamo alle prossime, dai, tanti auguroni a tutti quanti e ai rispettivi corra. Io passo in QRT, microfono Roberto, ci sentiamo alle prossime, ciao, vi saluto tutti, ciao. Ciao Massimiliano, buon tutto, divertiti e come dice un amico, bevete con la forchetta, così almeno non esagerate, divertitevi tutti quanti sempre con un po' di intelligenza. Ciao Massimiliano, anche a te, buon tutto, buon fine anno e buon tutto per il prossimo, Claudio ciao lo stesso, un abbraccio, ci sentiamo più presto, ora un poco, si sciasera non avvenimo a Ruti e Imbruti. C'era Mondino che stava chiamando, scusate un attimino di bianco che arriva un po' da lontanuccio, avanti Mondino se mi copi. Scusate un attimino, stava parlando Mondino, vabbè Mondino vai due canali su, vai al 12 un attimino così non disturbiamo e mi dici quello che mi stavi dicendo. Non so se sia ancora Franco, se è andato via la verità, ero un po' disattento. Franco Alfonso? Riprendo io, dai, corretti da parte mia, salutoni a tutti e sto chiudendo, devo chiudere, mi dispiace. QRT esecutivo, salutoni a tutti. Ok, vabbè, ci sentiamo, dai, ok, anche per te. Buon segmento di serata, buon fine anno e buon tutto per il prossimo, ci sentiamo alle prossime. Un abbraccio, ciao.